Radio 24 ed Eni presentano Passione Africana, reportage a cura di Gigi Donelli e Roberto Antonini. Ancora un saluto da Gigi Donelli e benvenuti a questo ultimo appuntamento di Passione Africana. Nelle scorse settimane abbiamo viaggiato attraverso i paesi, in particolare dell'Africa occidentale, che hanno conquistato un posto appunto al Mondiale 2010. Quindi abbiamo attraversato la Costa d'Avorio, il Ghana, la Nigeria ed il Camerun. Infine, oltre naturalmente al Sudafrica, paese ospitante, il sesto posto africano di questi primi mondiali africani, e scusatemi il gioco di parole, è stato conquistato dall'Algeria. Prima però bisogna di fare una premessa con voi. Come sapete, questo viaggio, questa passione africana che abbiamo realizzato con il collega Roberto Antonini sono state rigorosamente on the road, sono stati dei reportage che abbiamo realizzato raggiungendo i paesi coinvolti. Ecco, solamente due volte non siamo riusciti a entrare nei paesi. Roberto Antonini non è riuscito a entrare nella Repubblica Democratica del Congo nonostante un visto sul passaporto, quindi visto consigliato alle autorità, ingresso e uscita, o meglio immediata espulsione. Purtroppo anche per me l'Algeria rimane in questo momento ancora un sogno, sto ancora aspettando un visto richiesto ormai da due mesi. Insomma, per adesso non siamo riusciti a raccontarvi l'Algeria dall'interno. Naturalmente speriamo di farlo in una prossima, speriamo imminente occasione. Per risolvere la questione ho chiesto aiuto ad un amico, a uno scrittore algerino che naturalmente conosce il suo paese, conosce anche il nostro, dove vive ormai da alcuni anni. Allora ringrazio di essere con noi oggi Amara Lacous, che è scrittore e traduttore, che è qualcuno che ha vissuto anche le fasi complesse di un paese che negli ultimi anni è stato avvolto in qualche modo da un'ombra oscura legata al terrorismo, legato a degli enormi problemi sociali da cui ora sta cercando di uscire. Grazie innanzitutto Amara di essere con noi. Grazie a te. Ripartiamo dal calcio naturalmente. Sì, una grandissima festa, una notte indimenticabile dopo la vittoria. Parliamo della seconda partita, quella del pareggio al spareggio in Sudan. La gente è uscita per strada, donne e bambini, a festeggiare questa vittoria, che non era solo una vittoria calcistica ma era qualcosa in più. Ecco, fin lì diciamo festeggiare una vittoria sembra tutto normale, ma in quella notte già tu hai dato qualche elemento: una sfida contro l'Egitto, quindi una sfida molto sentita nel nord dell'Africa, nel mondo arabo, una sfida talmente sentita da dover essere giocata in campo neutro a Khartoum, perché c'erano stati degli scontri e delle forti tensioni. Quindi in che modo questa notte è stata vissuta come festa ma anche come battaglia? Allora, bisogna ricordare che tra l'Egitto e l'Algeria, ma anche con altri paesi del Maghreb, Marocco e Tunisia, ci sono sempre state tensioni, anche quando giocavano delle squadre nazionali. E questa partita, che poi valeva la qualificazione per il Mondiale, è stata vissuta sia in Egitto che in Algeria in un modo particolare. L'inizio è stato in Egitto, quando la delegazione algerina è arrivata al Cairo. L'Egitto doveva vincere 3-0 per qualificarsi, l'Algeria con un pareggio era già qualificata, 2-0 era lo spareggio. Quando la delegazione è arrivata all'aeroporto del Cairo, sono stati accolti con i fiori. Poi sono saliti su un pullman per andare all'albergo, sono stati aggrediti, quindi qualcuno ha buttato qualche sasso e un paio di giocatori sono stati feriti. Gli egiziani, invece di scusarsi subito, hanno detto che gli algerini hanno cominciato a fare la commedia, però non hanno messo nel conto una cosa, che quella partita era uscita dal campo sportivo calcistico e entrata nella politica. Non a caso si è a lungo parlato del terzo tempo di questa partita, la troisième mi-temps, come dicono i francesi. Già, Perché l'Algeria vince, insomma, questo spareggio, si assicura la qualificazione alla fase finale, per cui dall'11 giugno la vedremo in campo in Sudafrica, ma scoppia una polemica che ai nostri occhi è molto complessa. Addirittura gli egiziani dicono, tra i vari insulti, dicono: ma insomma, di che parlate voi che neanche siete arabi? È molto complessa, è molto difficile anche per noi algerini, egiziani, arabi, capire, è molto difficile. Diciamo che a un certo punto è entrata la strumentalizzazione, la propaganda politica, diciamo la verità, perché dopo questa aggressione alla delegazione algerina, il Ministero degli Affari Esteri algerini ha richiamato l'ambasciatore egiziano per protestare, per cui in Egitto hanno cominciato gli insulti, in Algeria rispondevano eccetera eccetera, e da lì poi è uscita fuori una cosa veramente vergognosa per entrambi i paesi. Gli algerini hanno cominciato a insultare gli egiziani accusandoli di essere filo israeliani contro i palestinesi, quelli che hanno aiutato Israele a mettere in difficoltà Gaza, i palestinesi, e così via, insomma un'escalation di polemiche. Sì. Però vorrei ricondurti a un elemento: come mai si parla di arabi, berberi o solo algerini? Perché questo in fondo racconta la complessità interna della certamente società. Poi questi sono temi aperti, non sono stati da sempre, mai risolti, non sono stati sempre. Certo scoperti da sempre. Diciamo che l'Algeria è un paese berbero arabizzato con l'Islam, con l'islamizzazione, però all'interno della società rimangono sempre questi grossi problemi. Tra l'altro l'Algeria è un paese abbastanza giovane, ha conquistato la sua indipendenza solo nel 62, e tutto il tema dell'identità, chi siamo, eccetera eccetera, rimane sempre di grande attualità. Quindi arrivano gli egiziani e ci buttano addosso questo problema grosso: non siete né arabi, e non si sa cosa siete. Hanno insultato anche i martiri, che in Algeria sono, insomma, è un tabù, è una cosa. E quando si parla di martiri in Algeria, si parla dei martiri della guerra d'indipendenza contro la Francia, 54-62. La storia è una ferita aperta che ancora fa sanguinare la cultura, l'opinione pubblica algerina. Fa sanguinare perché i protagonisti di ieri sono sempre i protagonisti di oggi, per cui si giocano la legittimità. In Algeria una delle condizioni per candidarsi alla presidenza della Repubblica, se uno è nato prima del 1942, deve dimostrare di aver partecipato alla guerra di liberazione, per cui tutto il discorso sulla rivoluzione, sulla guerra di liberazione è una legittimità importante. Quindi quando manca poi il consenso nella società, è facile andare a pescare un film piuttosto una dichiarazione di qualche ministro francese. In Francia è la stessa cosa. Ricordiamo recentemente un manifesto di Jean-Marie Le Pen sull'immigrazione clandestina e l'invasione della Francia con la bandiera algerina. 1945-1962 sono gli anni della guerra d'indipendenza algerina. Il 1991 è invece la data d'inizio di un altro tipo di guerra, che è quella del terrorismo. Una guerra iniziata dopo la cancellazione delle elezioni, appunto del 91, che avevano visto la vittoria del Fronte Islamico di Salvezza. Ecco, tu hai vissuto quegli anni dall'interno, dall'università. Ci puoi raccontare come si è affermata la minaccia islamista e terrorista in Algeria? Allora, io sono andato all'università ad Algeria nell'89, era l'inizio del processo democratico. L'Algeria usciva dal Partito Unico, l'FLN, Fronte di Liberazione Nazionale, e cominciava la fase del multipartismo. È stato legalizzato, accettato un partito a sfondo religioso, sapendo che poi l'Algeria è un paese musulmano. Nella Costituzione, il primo articolo della Costituzione dice che l'Algeria è un paese islamico, musulmano. Per cui la creazione di un partito a sfondo religioso musulmano era veramente un paradosso, una contraddizione. All'università ho avuto un assaggio di quello che poi loro promettevano in uno Stato islamico, basato soprattutto sul controllo dei comportamenti personali, cioè vestiti, le ragazze devono mettere il velo, uno deve mettere la barba e via dicendo. Invece di concentrarsi, queste non sono chiacchiere, diciamo, a volte questi racconti sembrano quasi come dire un copione scritto dal di fuori. Tu l'hai vissuto, Gigi, loro invece crede dall'interno dell'università. No, loro erano convinte che l'islamizzazione della società realtà deve partire dal basso. Già, perché non c'era niente da convincere in termini religiosi. In un paese al 99,5% musulmano non... Sì, però infatti si parlava anche di riislamizzare un po' la società. Cioè, questa società è vero, è musulmana, però se ha perso la strada. Ecco, la dobbiamo riportare sulla giusta strada. Per cui partevano da questa islamizzazione dal basso, che voleva dire soprattutto la separazione tra i due sessi. Cioè, gli uomini devono essere da una parte e le donne dall'altra parte. Cioè, questa promiscuità, questo vivere insieme non era accettabile. All'università hanno tentato anche di dividere la mensa, quindi i maschi da una parte e le ragazze dall'altra parte. Gli anni del terrorismo in Algeria si sono chiusi con una legge che di fatto ha imposto una forma di pacificazione nazionale. E in questo c'è una curiosa similitudine proprio con il Sudafrica, il paese dell'apartheid, che ha sviluppato un suo processo di rilettura storica, ma anche di riconciliazione. La sensazione è che però l'Algeria abbia alla fine scelto un percorso diverso. Sì, una strada estremamente diversa, quella di voltare pagina senza leggerla. Quello di, insomma, di non chiedere i conti, direi anche sul piano morale, ora non sul piano giudiziario, perché sarà anche difficile fare processi, portare prove al tribunale, eccetera eccetera. C'è stato anche un referendum chiamato per la concordia civile, la maggioranza assoluta degli algerini hanno votato più del 90%, la gente era sfinita, voleva comunque fare un passo in avanti e uscire un po' da quell'incubo terribile. Ecco, perché dici che quella pagina non è stata letta dalla società algerina? Perché la maggioranza di questi ex terroristi non hanno capito o non sono riusciti a fare un'autocritica, a fare una verifica, a mettere in discussione quello che c'è stato. Quindi sono tornate nella società, direi proprio con la sensazione di essere dei vincitori. E questo ha creato, e sta creando anche nella società, un clima di grande difficoltà. Cioè, la gente non sa chi è il vincitore e chi è lo sconfitto. In queste situazioni bisogna anche averlo, soprattutto sul piano morale.